È partito il primo studio clinico sull'impiego delle cellule staminali multipotenti mesenchimali per il trattamento di alcune malattie neurodegenerative, tra cui la paralisi sopranucleare progressiva. Si tratta di una malattia rara che è considerata una forma di parkinsonismo grave. Questo studio, promosso dalla Fondazione Grigioni, Istituti Clinici di Perfezionamento, e dalla Cell Factory Franco Calori del Policlinico di Milano, ha l'obiettivo di valutare la sicurezza e l'efficacia dell'impiego di cellule staminali multipotenti mesenchimiali autologhe, cioè provenienti dallo stesso paziente che poi a sua volta le riceve, in soggetti affetti da questa rara malattia per i quali attualmente non esiste alternativa terapeutica. Ne parliamo con il professor Gianni Pezzoli, che è direttore del Centro Parkinson degli Istituti Clinici di Perfezionamento di Milano, presidente dell'Associazione Italiana Parkinsoniani e presidente della Fondazione Grigioni per il morbo di Parkinson. Professor Pezzoli, grazie per essere con noi e benvenuto. Prego, buongiorno. Allora, professore, lo studio è già nella fase finale dell'iter autorizzativo presso l'Istituto Superiore di Sanità. Ci spiega un po' come si sviluppa? Lo studio prevede l'infusione endocarotidea e endovertebrale, cioè nelle arterie che portano sangue al cervello, di cellule staminali mesenchimali dello stesso paziente, cioè vengono prelevate dal sangue midollare del paziente, vengono poi isolate e coltivate in vitro e quindi dopo un certo numero di settimane, dopo che sono state caratterizzate, vengono reiniettate là dove dovrebbero servire e dovrebbero in linea teorica andare a rimpiazzare o comunque fare da sostegno alle cellule che nel frattempo, cellule cerebrali, che nel frattempo si stanno deteriorando. Professore, le cellule staminali che sono somministrate riescono a raggiungere le aree cerebrali colpite dalla malattia ed influenzano positivamente il tessuto circostante, riducendo quindi la morte cellulare. Sì, questo ovviamente è quello che auspichiamo. Esistono dei dati sperimentali sia sull'animale che sull'uomo che indicano che queste cellule addirittura siano in grado in parte di trasformarsi in cellule di sostegno, cellule gliali o addirittura in cellule nervose. Però diciamo che abbiamo comunque la certezza o un'ampia sicurezza che queste cellule siano in grado di portare dei fattori trofici o pezzi, per così dire, di cellule all'interno del sistema nervoso centrale per aiutare quindi le vie nervose che stanno degenerando in quel momento, cioè che sono molto sofferenti. Nello studio sono stati arruolati 20 pazienti affetti da questa forma di Parkinson molto aggressiva e rara. Sì, la malattia è rara, colpisce 6-7 persone su 100.000 e poi la si distingue con una certa difficoltà solamente a partire dal terzo o quarto anno, perché inizialmente viene scambiata per malattia di Parkinson. Viceversa, ha una rispondenza nettamente inferiore da un punto di vista farmaci rispetto al Parkinson e quindi questa è una delle pochissime terapie ipoteticamente utili. Partiamo da un caso difficile per trovare degli elementi, una strada che potrà, ce lo auguriamo, essere applicabile anche a forme di Parkinson meno gravi. Sì, potrebbe essere utile naturalmente in malattie neurodegenerative molto più comuni e per le quali ovviamente che abbiamo messo in seconda battuta. Siamo partiti ovviamente con una malattia rara e ad evoluzione nettamente sfavorevole, in modo da poter valutare effetti collaterali e eventuali, quindi la cosiddetta sicurezza, la safety, ed eventualmente effetti positivi. Il tutto, ovviamente, l'esperienza potrà essere poi estesa ad altre malattie neurologiche più frequenti come la malattia di Parkinson e tutte le sindromi correlate ad essa. Professor Pezzoli, possiamo anche parlare di tempi? Contiamo di chiudere questa in un annetto questa ricerca, quindi avere i primi risultati magari già alla fine dell'anno, sperando che siano ovviamente positivi o molto positivi. Comunque questo sia la strada giusta e quindi di qui a qualche anno magari associando a infusioni di cellule di questo genere fattori trofici, cioè di fatto ordini più specifici alla cellula, si possa arrivare ad una terapia neuroriparatrice che già in molte aree della scienza neurologica si è trovata un piccolo capitolo. Tutto sommato si parla di neuroriparazione negli ultimi anni, quando 20 anni fa un termine del genere veniva considerato quasi una bestemmia. Professore, l'augurio è anche di ottenere presto dei risultati per offrire ai pazienti un'opzione terapeutica in più completa sicurezza e soprattutto frenare un certo turismo sanitario che oggi coinvolge circa il 10% dei pazienti affetti da questa malattia che si recano all'estero, principalmente in Germania, in Cina, in Sud America, per sottoporsi a infusioni con cellule staminali, sia autologhe che eterologhe. Questo è un aspetto molto importante da considerare, perché naturalmente il malato cerca di trovare la terapia, una soluzione per fermare la malattia, ma i rischi sono elevati, professore. Sì, beh, il malato ovviamente va su internet e tutto quello che trova lo ritiene valido, per cui specialmente appunto in aree non controllate come la Cina, però anche in Germania esistono centri sedicenti autorizzati all'utilizzo di staminali, ma che in realtà utilizzano, abbiamo visto noi svariati pazienti che hanno voluto recarsi a tutti i costi in questi centri, la quantità di staminali che vengono utilizzate è poi pochissima, quindi inferiore all'1% nelle infusioni, risultati concreti non ne abbiamo mai visti. Queste infusioni hanno dei costi molto elevati, professore, che vanno dai 10.000 ai 40.000 euro per infusione, vero? Le richieste in questi centri in giro per il mondo, grosso modo, sono su questa cifra, del tipo $25.000 in Cina per seduta, e loro mi confermavano di avere decine e decine di pazienti costantemente ricoverati anche dagli Stati Uniti. Questo perché purtroppo in alcune malattie, ad esempio la sclerosi multipla, le remissioni spontanee sono la regola, e l'effetto placebo di una puntura di una arachicentesi, quindi una puntura lombare con queste pappe cellulari, l'effetto placebo, cioè comunque un miglioramento indipendente dal vantaggio reale che può provocare un'infusione di cellule dall'esterno, esiste sempre in queste patologie nell'ordine del 20-30-40%, talvolta, però l'effetto è transitorio e dura magari soltanto pochi giorni. Professore, quindi lanciamo un messaggio. È logico che molte persone cercano delle strade, cercano questi centri su internet, bisogna avere la competenza, bisogna essere certi che siano centri che rispondono, no? Soprattutto ai requisiti, agli standard sanitari. Ma quali indicazioni può dare lei ad una persona che è disperata e vuole trovare una soluzione? Ma guardi, i dati scientifici devono essere pubblicati su riviste scientifiche, perché se i dati vengono tenuti nascosti e poi comunque comunicati al paziente con un atteggiamento autoreferenziale inaccettabile, non valgono da un punto di vista scientifico. Quindi provare terapie che siano ipoteticamente utili, ma che in realtà potrebbero essere anche pericolose e la cui utilità non è stata dimostrata, è totalmente sbagliato. Ecco, di fronte però ai nostri pazienti, quali ci hanno sempre detto: va bene, ma voi che cosa ci proponete? Avete delle alternative? Le alternative noi non le avevamo, e adesso a questo punto abbiamo messo però in piedi uno studio serio, controllato, autorizzato ovviamente, e quindi segue tutti i canoni della medicina scientifica, sperimentale e clinica, per arrivare ad una conclusione e poter dire queste infusioni sono utili oppure non sono utili. E soprattutto se sono sicure. Naturalmente. Professor Pezzoli, io la ringrazio, non mi resta che augurarle buona ricerca. Grazie per essere stato con noi. Buona giornata.